Questa parte del Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto dal 30 in poi, ci suggerisce che non sempre i nostri pensieri detti a fin di bene sono buoni. Succedeva che Gesù avvisa i suoi: io salgo a Gerusalemme e là sarò preso, sarò ucciso, poi risorgerò. Pietro, che probabilmente come età era più grande di Gesù, perché Pietro era sposato, aveva una suocera, lo prende da parte perché ormai godeva di una certa autorità tra gli apostoli e gli dice: ma sei matto, Gesù? Ma tu dici che se vai a Gerusalemme ti fanno fuori e tu tranquillamente lo dici che ci vuoi salire. Per carità, togliti via sto pensiero di testa. E Pietro lo diceva perché amava Gesù, gli voleva bene e non voleva che si mettesse, diremmo noi, nei pasticci. Vuole salvare la vita a Gesù e si sente per tutta risposta dare del: sei un diavolo, sei un Satana, vai via, perché il tuo modo di ragionare, anche se sembra buono, non è secondo la volontà di Dio, dunque tu mi sei un tentatore, vattene. Io riflettevo se può capitare anche nella nostra vita questo, e mi venivano in mente alcuni pensieri. Uno: incontro una coppia di sposi che hanno già due figli e lei dice: don, sono incinta, però tutto mi spinge ad abortire. Mio marito dice: lo tieni. Come lo tengo? Scusa, è nostro figlio. Ma ne abbiamo due piccolini. Va dalla suocera e dice: il terzo non te lo curo mica io, no, dovevate pensarci prima. Capite come ragiona Satana? Questa donna l'ha tenuto, perché le donne sono veramente forti nel bene e nel male, Nel male sono delle streghe, ma nel bene sono delle eroine. Noi maschi ce lo sogniamo. E questa donna ha tenuto il terzo figlio e poi l'ha portato avanti e poi hanno avuto un quarto figlio. Capite che non te lo curo. Vai via, Satana, tu ragioni così. Guardate che tante volte nel nostro cuore, in questo caso era un Satana di fuori, ma certe volte Satana ce l'abbiamo dentro nel nostro cuore, Uno fa uno sbaglio, commette una stupidata e poi non vuole dirlo. Ma no, ma se lo dico in casa, che sia un ragazzo, che sia un adulto, ma che cosa succede? E allora tace, allora mente e allora dice una bugia. E c'è un bel proverbio che dice: se tu dici una bugia, poi sei costretto a dirne altre sette per mantenere quella versione dei fatti, no? E allora bisogna avere il coraggio di tirar fuori. Di tirar fuori, perché Satana dentro di te ti dice: no, no, non farlo, non farlo. Ho in mente ancora un episodio che ho letto tempo fa, quando c'era in Russia i comunisti che perseguitavano la Chiesa, forse ci sono ancora, non lo so, ma certamente tempi fa, diceva un episodio di un sacerdote che aveva sbagliato, si era compromesso con una donna. E allora i funzionari del partito lo tenevano d'occhio e gli dicevano: sta attento alla prima che fai, guarda che noi spiattelliamo tutto alla tua gente. E lui doveva sottomettersi, non doveva dire certe cose, doveva dire certe cose che piacevano al partito, finché una volta, durante una predica, li vede giù in fondo vicino alla porta della chiesa. Allora ha preso il coraggio a due mani e ha detto: cari parrocchiani, il vostro parroco è un grande peccatore. Ci sono quei due signori in fondo là che mi stanno ricattando perché io ho sbagliato con una donna e loro continuano a dire, io confesso il mio peccato, andrò dal vescovo a dirgli di spostarmi perché non sono più degno di fare il vostro parroco. Questo gli ha attirato l'affetto dei suoi parrocchiani, perché hanno visto, si sbaglia, ma è l'inganno, ma è la falsità che ci fa togliere tutta la fiducia. Lui si è confessato di fronte a tutti, mentre il pensiero che aveva dentro è taci, nascondi. I suoi parrocchiani gli hanno perdonato, hanno visto che era un peccatore come loro e hanno continuato a volergli bene. Amici, non tacciamo le cose. Se abbiamo sbagliato, non rifugiamoci nella menzogna, non rifugiamoci nel silenzio. Satana ti dice no, non dirlo, non farlo, poi vedi, non ti guardano più, poi perdi la stima. E invece la stima, amici, dobbiamo cercarla presso il Signore. E allora suggerisco a me stesso e a voi, quando nel nostro cuore abbiamo un pensiero che ci spinge al male, che ci spinge alla menzogna, dobbiamo avere il coraggio di rientrare nella nostra coscienza e di dire vai via, Satana, io voglio essere figlio di Dio, io dico la verità, anche se mi costa. Possiamo fare un esorcismo su noi stessi. Vai via, Satana.